da queste amiche piante dover mi allontanar quanto mi spiace conserveranno ne ora o mio bel cuore la memoria fedel del nostro amore ma del nostro cammino è tempo ormai di seguitare nel corso vanne ed appresta a corridore il polso ch'io qui t'attendo pronto d'ogni tuo cenno esecutor son io.